Componimento settimo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Alla primavera o delle favole antiche. Perché i celesti danni ristori il sole e perché l'aure inferme Zefiro avvivi, onde fugata e sparta delle nubi la grave ombra s'avvalla. Credano il petto inerme gli augelli al vento e la diurna luce, nuovo d'amor desio, nuova speranza, nei penetrati boschi e fra le sciolte pruine induca alle commosse belve. Forse alle stanche e nel dolor sepolte umane menti riede la bella età cui la sciagura e l'atra face del ver consunse innanzi tempo, ottenebrati e spenti di febo i raggi al misero non sono in sempiterno ed anco primavera odorata inspiri e tenti questo gelido cor, questo ch'amara nel fior degli anni suoi vecchiezza impara. Vivi tu, vivi, o santa natura, vivi e il dissueto orecchio della materna voce il suono accoglie. Già di candide ninfe i rivi albergo, placido albergo e specchio, furo i liquidi fonti, arcane danze, di mortal piede i ruinosi gioghi, scossero e l'ardue selve, oggi romito nido de venti, e il pastorel callombre meridiane incerte e dal fiorito margo adducea de fiumi le sitibonde agnelle arguto carme sonar da gresti pani udì lungo le ripe e tremar l'onda vide e stupì che non palese al guardo l'affaretrata diva scendea ne caldi flutti e dall'immonda polve tergea della sanguigna caccia il niveo lato e le vergine e braccia. Vissero i fiori e l'erbe, vissero i boschi un dì, consce le molli aure, le nubi e la titania lampa, fur dell'umana gente, allor che ignuda te per le piagge e i colli, ciprigna luce alla deserta notte, con gli occhi intenti, il viator seguendo, te compagna alla via, te de mortali, pensosa immaginò, che se gli impuri cittadini consorzi e le fatali ire fuggendo e l'onte, gli ispidi tronchi al petto altri nel lime, selve remoto accolse, viva fiamma agitar le sangui vene, spirar le foglie e palpitar segreta nel doloroso amplesso, Daphne o la mesta figli, o di Climene, pianger credé la sconsolata prole, quel che sommerse in Eridano il sole. Né dell'umano affanno, rigide balze, i luttuosi accenti, voi negletti ferir mentre le vostre, paurose la tebre, eco solinga, non vano error de venti, ma di ninfa abitò misero spirto, cui grave amor, cui duro fato escluse, delle tenere membra. Ella per grotte, per nudi scogli e desolati alberghi, le non ignote ambasce e l'alte e rotte, nostre querele al curvo etra insegnava, e te d'umani eventi, disse la fama esperto, musico augel, che tra chiomato bosco or vieni al rinascente anno cantando, e lamentar nell'alto ozio de campi all'aer muto e fosco antichi danni e scelerato scorno e d'ira e di pietà pallido il giorno. Ma non cognato al nostro il gener tuo, quelle tue varie note dolor non forma e te di colpa ignudo, men caro assai la bruna valle asconde. Ahi, ahi, poscia che vote son le stanze d'Olimpo e cieco il tuono per l'atre nubi e le montagne errando, e gli iniqui petti e gli innocenti apparo in freddo orror dissolve. E poi che strano il suol nativo e di sua prole ignaro le meste anime educa, tu le cure infelici e i fati indegni, tu de mortali ascolta, vaga natura, e la favilla antica rendi allo spirto mio. Se tu pur vivi, e se de nostri affanni cosa veruna in ciel, se nell'aprica terra s'alberga o nelle cuore o seno, pietosa no, ma spettatrice almeno. Fine del componimento settimo.